Euroreportage. OGMUE, i semi che nessuno controlla, di Claudia Vanni. La prima volta in cui venne sperimentata erano gli anni 70, nel 90 poi arrivarono le prime normative europee sui rischi per la salute umana e per l'ambiente. A distanza di decenni la modificazione genetica degli organismi fa ancora discutere, soprattutto perché non esistono organi di controllo certi con laboratori indipendenti, come denuncia il professor Marcello Buiatti, docente di biotecnologie dell'Università di Pisa. L'EFSA dovrebbe essere l'agenzia per il controllo indipendente, soltanto che non ha laboratori indipendenti. Se hanno dei dubbi, questi dubbi non vengono dati da verificare a laboratori indipendenti, ma alle imprese produttrici, controllore controllato, insomma, cosa che è proibita in tutti i testi unici sul rischio. C'è delle linee guida che sono state fatte da una persona che poi si è dimessa ed è diventata capo di marketing di Syngenta, che è una delle tre grandi imprese multinazionali che fanno OGM. Per cui io non le so dire se sono pericolosi o non pericolosi, perché non abbiamo un'agenzia che controlli. Basta chiedere direttamente all'EFSA, la European Food Safety Authority, l'autorità in questione, per confermare lo stato delle cose. Così hanno risposto al nostro quesito. L'EFSA non ha laboratori, il suo ruolo principale è infatti quello di fornire una valutazione scientifica indipendente sui rischi associati alla sicurezza di alimenti e mangimi. I gestori del rischio dell'Unione Europea, Commissione, Stati membri e Parlamento, sono invece i responsabili dell'adozione e dell'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare. Il 23 ottobre scorso è stato pubblicato un dossier dal CEO, il Corporate Europe Observatory, l'osservatorio industriale dell'Europa, che rivela che il 59% degli esperti EFSA hanno conflitti di interesse. Già nel 2012 l'agenzia EFSA era stata fortemente criticata da Parlamento europeo e Corte dei Conti europea, tanto che nel giugno dello stesso anno l'EFSA aveva rinnovato l'80% dei suoi membri. Analizzando le dichiarazioni pubbliche dei 209 esperti dell'agenzia di quel periodo, il CEO ha riscontrato 850 situazioni di conflitto di interesse, dai banali contratti di consulenza, intestati a nome proprio o a familiari, fino a finanziamenti a laboratori privati degli esperti. C'è poi un'altra questione da analizzare: per alcuni le coltivazioni OGM rappresenterebbero, più che un danno alla salute umana, un rischio per le agricolture locali di piccole e medie dimensioni. Il docente di biotecnologia e Buiatti riporta l'esempio dell'America Latina. In Brasile, Argentina e Paraguay, cosa è successo? È stata ammessa l'entrata di OGM e delle multinazionali, naturalmente, che hanno gli OGM, hanno mandato via i contadini dalle loro piccole terre, loro c'erano delle piccole aziende di grandezza come le nostre italiane, praticamente, in quella zona, in cui coltivavano miglio, coltivavano mais, coltivavano roba da mangiare, e tutte queste zone, tutte queste piccole aziende contadine sono state riunite in grandissime facendas di addirittura 100.000, 150.000 ettari l'una, tutte a soia. Il pericolo che io temo, per esempio, per l'Italia è esattamente questo. Se fosse possibile coltivare OGM dove si vuole, entrerebbero immediatamente multinazionali, e hanno anche ragione di entrarci, cioè non ci vedo niente di male in partenza, e le nostre agricolture scomparirebbero. La questione OGM sembrerebbe quindi tutta di carattere politico-economico più che sanitario-scientifico. Pur partendo da una posizione pro-OGM, è dello stesso parere il professor Pier Domenico Perata, docente di fisiologia vegetale nonché rettore della Scuola Superiore Sant'Anna. Se le chiusure sul piano politico vengono fatte adducendo presunte evidenze scientifiche di pericolosità, allora questo è un errore clamoroso. Se invece le decisioni politiche vengono fatte perché si ritiene che sul piano economico gli OGM non siano vantaggiosi per l'economia, per l'agricoltura del nostro paese, allora la decisione politica è in quanto tale legittima. Sul piano scientifico non vi sono evidenze che supportino una obiezione all'uso degli OGM. Secondo me, in buona parte anche a livello europeo, la situazione è simile. Vi è una posizione di obiezione politica agli OGM che, lo ribadisco, è legittima, ma che nulla ha a che fare con la presunta pericolosità degli OGM. Che siano obiezioni di natura politica o no, in Europa si discute di OGM da decenni. L'ultimo scontro, in ordine temporale, solo qualche giorno fa, quando la Commissione europea ha dato il via libera alla coltivazione del mais geneticamente modificato Pioneer 1507, dopo che l'11 febbraio il Consiglio dell'Unione non è riuscito ad accordarsi sul tema. È questa infatti la procedura d'autorizzazione per l'emissione nell'ambiente di OGM, sia per la coltivazione che per la commercializzazione. Punto primo, in base alla direttiva europea 18 del 2001, l'impresa che voglia immettere in commercio un OGM presenta all'autorità nazionale competente nello Stato membro in cui il prodotto sarà commercializzato per la prima volta un'apposita domanda accompagnata da una scheda sul rischio ambientale. Se il paese in questione approva, informerà a quel punto gli Stati membri tramite la Commissione europea. In assenza di obiezioni, l'autorità competente che ha valutato la richiesta iniziale concede l'autorizzazione definitiva valida in tutta Europa. Ipotesi questa remota, infatti molto più probabile che emergano contrarietà e allora in quel caso la decisione si sposta in sede europea. La Commissione chiede un parere ai suoi comitati scientifici, appoggiandosi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ricordiamo non ha laboratori propri. Il resoconto viene sottoposto a rappresentanti degli Stati membri. Se questi non trovano l'accordo, sarà il Consiglio dei Ministri europeo ad approvare o rifiutare. Ma attenzione, se la pronuncia non arriva entro 3 mesi, è la Commissione stessa a decidere. È così che è avvenuto anche qualche giorno fa. Durante il dibattito in Consiglio, una ventina di paesi, tra cui Austria, Francia e Italia, si sono detti contrari all'emissione di un nuovo mais transgenico. Ma la maggioranza qualificata non è stata raggiunta e la decisione è rimbalzata nelle mani di Bruxelles, che si sarebbe detta obbligata all'approvazione. In Italia prevale la tendenza al veto, anche se poco oltre il confine si trovano migliaia di ettari di coltivazioni OGM, tra Spagna, Portogallo, Romania, Slovacchia e Repubblica Ceca. In ambito internazionale la leadership delle colture transgeniche resta nelle mani degli Stati Uniti, con più di 70 milioni di ettari. Sul secondo gradino del podio il Brasile con 40 milioni di ettari. Nel 2000 il governo italiano sfruttò anche la carta clausola di salvaguardia, una norma europea che prevede divieto o limitazioni all'uso di OGM sul territorio nazionale, in caso di fondati rischi per la salute o l'ambiente. Ma i dati scientifici comunicati dalle autorità italiane non furono giudicati sufficienti dalla Commissione europea. Prove certe sulla nocività degli organismi geneticamente modificati non ce ne sono, ma prevale la diffidenza, come spiega il professor Perata della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. È un aspetto probabilmente legato alla natura dell'uomo. L'uomo da sempre diffida delle novità per quanto riguarda l'alimentazione, perché vi è una ancestrale reticenza ad accettare il nuovo. A oggi non abbiamo alcuna evidenza che vi siano controindicazioni per la salute dell'uomo o degli animali. Va anche detto che si tratta di una tecnologia certamente non nuova. Per quanto riguarda soia e mais, ormai sono decenni che questa tecnologia è in campo, quindi diciamo che esistono anche ormai evidenze abbastanza di lungo periodo per poter escludere problemi per la salute. Gli OGM più comuni sono varietà di specie vegetali come la colza, il cotone, il mais e la soia, solitamente mangimi destinati al bestiame. Si tratta di prodotti indicati tramite speciale etichettatura, anche se la norma comunitaria non impone che l'indicazione venga riportata anche sull'etichetta di carni, latte o uova derivanti da animali nutriti con OGM. La tecnologia transgenica in agricoltura sarebbe stata introdotta per rendere le piante resistenti ad insetti nocivi e tolleranti a diserbanti specifici, come chiarisce il rettore della Sant'Anna, Pier Domenico Perata. I vantaggi sono dati dai numeri, in alcuni casi, in due casi molto ben noti, cioè quello della soia e del mais, l'applicazione di questa tecnologia è stata un successo a livello mondiale. Nel caso del mais abbiamo un mais che resiste agli insetti e quindi consente un minor impiego di pesticidi. Nel caso della soia, è una soia che consente l'impiego di un diserbante particolare e quindi dà un grosso vantaggio agli agricoltori nella tecnica di coltivazione. Di parere opposto il genetista Marcello Buiatti, che smentisce. Si usa molto più diserbante adesso che non prima, perché la soia ha un gene che blocca il diserbante. si risparmia in soldi tutta la manodopera che deve essere usata per diserbare, no? Per cui loro passano in queste grandissime fazende, passano con un aereo, irrorano anche i contadini con il diserbante, spendendo pochissimo perché bastano due piloti. Secondo il professore di biotecnologie Buiatti, anche i vantaggi economici sarebbero ridotti e circoscritti alle grandi multinazionali. Il problema è che le grandi multinazionali hanno soldi e pigliano soldi perché gli OGM sono brevettati. Che significa brevettato? Brevettato vuol dire che ognuno che abbia anche una sola pianta geneticamente modificata, brevettata, deve pagare le royalties alle grandi imprese. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.